Così mi ricordo l'ultima volta che ho parlato con Don Giovanni Calabria. Mi ha chiamato per telefono al posto pubblico di Gargagnago. Aveva 82 anni, mancava poco alla sua morte. Sai, Don Nigino, son Don Giovanni. Don Giovanni? Ma chi? Don Calabria? Oh, ma padre! Mi chiama per telefono. Cosa ha da dirmi? Figliolo, prega per me. Prega per me. Ma Don Giovanni, è lei che deve pregare per me. No, non dirlo. Prega per me. Prega per me. Sono venuto a chiederti per telefono la carità che tu preghi per me, per la mia anima. Un santo, arrivato a 82 anni, un uomo trasparente nel suo spirito, un uomo che ti leggeva nel cuore, un uomo che vedeva nel futuro, un uomo di Dio, che è arrivato a quelle quote così alte, s'accorge che i suoi piedi sono ancora di creta e si raccomanda alle preghiere di un giovane prete che non poteva misurarsi con lui. Io ero ancora un apprendista del sacerdozio, di fronte a un gigante del sacerdozio, la perla del clero veronese, ora onorato con il massimo degli onori. Prega per me. Ma Don Giovanni, si sbaglia, è lei che deve pregare per me. Don Igino, prega per me, che ne ho tanto bisogno. E di lì a qualche mese è morto, nel bacio del Signore, fino all'ultimo, esperto fino al pianto della sua fragilità. È commovente questa coscienza nitida, chiara, che non si lascia sofisticare da nessuna adulazione, da nessun orgoglio. La realtà è questa, che noi, vita natural durante, saremo sempre fragili, peccabili. La fragilità che ho io l'avete anche voi, tutti abbiamo i piedi di creta. E basterà una buccia per farci scivolare nel peccato, in un peccato grave, in uno scandalo. Che Dio ci tenga una mano sulla testa e una sul cuore, e nei momenti del pericolo ci prenda in braccio, non fidandosi di noi, che siamo terribilmente fragili. Ecco, ricominciare da capo è proprio delle persone fragili. Credete voi che se io mi confesso così spesso e volentieri sia per un'altra ragione? È per questa ragione, perché sono fragile, perché ogni mattina mi accorgo che i piedi sono fragili, di creta. Mi accorgo che i miei propositi devo rifarli, rinnovarli. Se io potessi farvi vedere il mio quaderno di vita spirituale scritto quando ero giovanissimo chierico, trovereste che i propositi che faccio oggi sono ancora quelli. Qualche sfumatura, che allora non c'era, qualche variante, ma sostanzialmente i propositi che faccio oggi li ho fatti nel 1938. Quanti anni fa? Se mi confesso spesso e volentieri è perché ho coscienza della mia fragilità. E ringrazio Dio di questa coscienza, perché se non credessi di essere fragile, io sarei sull'orlo della dannazione, come tutti i mortali che presumono di se stessi. Ma lei ha assolto tanti. Sì, e ho imparato a conoscere la mia fragilità assolvendo i peccati degli altri. Perché la coscienza mi diceva: stai attento che i crimini commessi da questo penitente li potresti commettere anche tu e fare di peggio. E se talvolta ho sentito ribrezzo, ripugnanza per ciò che avevo sentito dal penitente, io sentivo dentro di me come un eco che rimbombava nel mio petto: stai attento, perché quello che ha commesso questo povero diavolo, tu potresti commetterlo quando meno ci pensi. Ho imparato a dubitare, a temere, proprio amministrando il grande sacramento della confessione. Non ho mai pensato che gli altri fossero più fragili di me. Ho dovuto convincermi che io ero più fragile di tutti. Dice un libro importantissimo, L'imitazione di Cristo. Senti, dice il Signore, tu bada bene di non credere mai che ci sia qualcuno più fragile di te. Tu sei il più fragile di tutti. Perciò tu devi temere di te più che tutti gli altri. Ma come? Lei è sacerdote, lei consacra l'Eucaristia, ha battezzato tanti bambini, ha assolto migliaia di peccatori di ogni ceto civile. Ah, appunto per questo mi sento fragile, perché mi accorgo d'essere arrivato alto, alto, alto nei progetti di Dio. E quanto più si sale, più si ha da temere della propria fragilità. Non è che salendo noi diventiamo confermati in grazia, impeccabili, invincibili, incorruttibili. Via via, queste parole non sono di questo mondo, sono dell'altra casa che ci attende, sono attributi della trascendenza divina. Noi, natural vita durante, siamo tutti fragili.